spararsi al cuore, innamorarsi di te, la perfezione, in fondo un difetto se c'è, è il sentirsi male per volerti bene. Una passione troppo più grande di me, chiamalo amore, ma più lo vivo e più scopro che sei acqua di pioggia che non si fa bere. Dillo tu, che con i sensi ci lavori bene, come guarire non dolersi più. Senti me, sentimento, quante volte con te piango, quando siamo soli, quando siamo soli. Senza lei ciò che vale è che il resto resti uguale, quando siamo soli, quando siamo soli. Sarai dolore sicuramente per me, un dispiacere, niente di nuovo improvviso, perché ricordi già stavo male nel volerti bene. Dillo tu, che caldo e freddo sai tenere insieme, che tocchi il fondo e poi ritorni su. Senti me, sentimento, quante volte con te piango, quando siamo soli, quando siamo soli. Senza lei ciò che vale è che il resto resti uguale, quando siamo soli, soli, soli, soli. Quando siamo soli, quando siamo soli, soli.